Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ero arrabbiato con il mio amico. Gli dissi della mia rabbia. La rabbia sparì. Ero arrabbiato con il mio nemico. Non gli dissi della mia rabbia. La mia rabbia aumentò. William Blake. Ci sono mille ragioni che possono scatenare la nostra rabbia e altrettante situazioni in cui mantenere la calma è davvero difficile. Ciascuno si attrezza nel tentativo di gestire al meglio la situazione. C'è chi tenta in tutti i modi di reprimere la rabbia. Sì, pronto. Sì, e come va? Non bene. Sono molto irritato in proposito. Anzi, sono molto arrabbiato. Sì. Ma perché me lo racconti a me? Perché lo racconto a te? Tu non sei niente in proposito. Io non so di che stai parlando. Non ne sei niente, allora? Io non so di che stai parlando. Ok, va bene. Stavo solo cercando di dirti quello che sento. Sono irritato? Sono irritato e la mia è... E la mia è una rabbia repressa. Una rabbia repressa. E c'è chi invece si lascia andare e la tira fuori tutta. E se anche voi quando vi salta la mosca al naso sentite forte l'esigenza di buttare fuori tutta la rabbia, c'è una camera per voi che vi aspetta in un capannone vicino a Forlì, dove un giovane imprenditore ha attrezzato una stanza in cui ci si può rinchiudere per sfasciare con mazze da baseball tutto quello che ci sta intorno, dalle bottiglie ai mobili, al prezzo di 35 euro all'ora, come riporta un interessante articolo sulla stampa di ieri. Allora, se l'idea ha successo, si pensa addirittura di lanciare un franchising. Allora, voi che dite? Vi chiudereste nella stanza o chi ci mandereste? 800 24 00 24. Buongiorno al professor Paolo Cavedini, psichiatra e professore alla scuola di psichiatria dell'Università di Firenze. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Professor, Aristotele scriveva di arrabbiarsi con la persona giusta, nella misura giusta, nel modo giusto e per la giusta causa, come a dire che c'è modo e modo, ma adesso c'è anche un luogo, la stanza della rabbia, lei come la vede? Che sono d'accordo con Aristotele, perché se da una parte scaricare la tensione crescente produce benessere, dall'altra può essere anche un po' rischioso, no? Perché se ci arrabbiamo spesso e tanto con le persone che abbiamo davanti, poi i rapporti si complicano, quindi forse una stanza dedicata ci aiuta a trovare il luogo giusto e non farlo invece con le persone che ci stanno attorno sempre. Qui in studio con me la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALTA, che è l'associazione lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari, responsabile del centro trombosi dell'Istituto Clinico Humanitas. Buongiorno. Buongiorno. Qualcosa a proposito di cuore, qualcosa dentro di noi cambia, tanto che ci sono dei modi di dire comunemente usati che fanno proprio riferimento alle modificazioni che avvertiamo quando proviamo la rabbia. Mi sale il sangue alla testa, sono rosso di rabbia, mi mangio il fegato, i nervi tesi, vedo nero. Mi tremano i polsi, mi prudono le mani. Beh, sono tutte variazioni che sono causate, per essere molto concreti, da alterazioni che avvengono nella circolazione del sangue, causate da una serie di ormoni che vengono scatenati proprio dall'impulso che è creato, dalla situazione che ci ha creato la rabbia. E quindi il formicolio alle mani e quindi il rossore. Ci sono persone che quando si arrabbiano diventano molto rosse in viso, ci sono persone molto pallide, perché ognuno ha un suo modo di reagire. Ci sono persone che hanno l'istinto di reagire immediatamente, ci sono persone che contano fino a 10 prima di reagire, ma in questo modo trattengono la rabbia. Quindi c'è sempre una correlazione fra l'ambiente in cui viviamo, gli stimoli che ci dà e la reazione che il nostro corpo dà. Lei la stanza come la vede? Intanto che io la stanza la vedo come un'idea bellissima, perché tutto quello che è imprenditore e soprattutto se giovane e soprattutto con idee nuove lo trovo bellissimo. Personalmente non ci andrei nella stanza perché ritengo che questo concetto di legare sfogo la mia rabbia con delle violenze, anche se le esercito su un muro che quindi non è reattivo, credo che sia, anche se un po' noioso da dire, poco educativo, perché allora preferisco andare fuori a camminare a costo zero, vado a camminare veloce per 40 minuti se me lo posso permettere, o vado in bicicletta sempre, certo, se me lo posso permettere dal punto di vista fisico. Quindi trovo che è bellissima l'idea, è originale, ma non credo che sia la strada giusta da percorrere, perché altrimenti è una specie di permesso di sfogare la violenza. Oggi lo sfoghi contro il muro, domani magari ti viene di fare la stessa cosa, come accade, vediamo in televisione tutti i giorni. 800 24 00 24, se volete intervenire. Professor Cavedini, la rabbia comunque è un'emozione che tutti noi conosciamo, è un'emozione primaria, ciascuno però di noi ha un rapporto diverso. Allora sarebbe interessante oggi approfittare da questa notizia con cui abbiamo aperto, che abbiamo letto ieri sulla stampa, per cercare un po' di riflettere qual è il nostro rapporto con questa emozione, che cosa la scatena e come riusciamo a gestirla. 800 24 00 24, abbiamo una Vox Populi per così confrontarci sulle cose che fanno arrabbiare di più. Mi fa arrabbiare come si manifesta la mia rabbia, perché mi viene da piangere. Mi fa arrabbiare la gente ignorante quando mi pestano i piedi. Sì, spesso. Si manifesta gridando e innervosendomi. Il traffico in prima linea. E le ingiustizie. L'arroganza, la prepotenza. Queste sono le cose che secondo me mi fanno più arrabbiare. Professor Cavedini, la rabbia è un'emozione che sentiamo nel cuore, perché ci sentiamo proprio, vero, dottoressa Rotavender? La sentiamo nel cuore, la sentiamo nel cervello, forte. E si crea un circuito. Infatti però nasce nel cervello, e parleremo proprio di questa relazione molto stretta tra cuore e cervello. Ma partiamo dal cervello, professor Cavedini, lei è uno psichiatra. La rabbia ha un suo circuito che in qualche modo ripercorre quello degli attacchi di panico, è vero? Allora, innanzitutto non dobbiamo dimenticarci che la rabbia nasce come un'emozione primaria utilizzata per difendersi, no? In termini evoluzionistici, in natura gli animali aggrediscono, si arrabbiano, quindi agiscono per tutelarsi, quindi è inizialmente una condizione positiva e benevola, poi si tratta di gestirla e di affrontarla in maniera adeguata. Il nostro cervello ha evidentemente un circuito specifico, e quindi la componente biologica della rabbia è una componente molto importante, quindi non soltanto ci sono delle reazioni fisiologiche, dicevamo prima, l'aumento della frequenza cardiaca, le alterazioni dei nostri ormoni, ma si osserva anche una specifica attività cerebrale. Il nostro lobo frontale, che è la parte anteriore del nostro cervello, è implicata nella rabbia e nei comportamenti impulsivi, e in tendenzialmente un po' tutta la parte sinistra del nostro cervello, che è quella parte che è legata prevalentemente agli stati d'animo negativi, tra i quali la rabbia appunto. Quindi esiste un circuito che è deputato, evoluzionisticamente parlando, a gestire le nostre reazioni di fronte alle difficoltà, di fronte ai pericoli. E su questo, come dire, poi è ovvio che i meccanismi di inibizione della cultura, della società, poi hanno fortunatamente trovato e creato anche delle condizioni per evitare che in qualche modo reagissimo di fronte a qualsiasi situazione di provocazione esterna. Quindi fortunatamente non aggrediamo tutti quelli che ci stanno davanti. Meno male. È qua che mi viene in mente questa proprio sull'osservazione del professore, e racconto un aneddoto che capita spesso negli ospedali, di persone che sono sempre state nella loro vita miti, normali, educate, gentili, comprensive, pazienti, pazienti non in senso di malati, ma nel senso di tolleranti, e poi improvvisamente diventano aggressive, con un linguaggio assolutamente improprio che non hanno mai avuto. E in queste persone qualche volta si scopre, soprattutto se hanno, diciamo, un'età che va oltre i 50 anni, si scoprono delle piccole lesioni proprio del lobo frontale, sì, perché il lobo frontale è la parte anteriore del cervello. E questo di cui parlava proprio il professore, che è un lobo ancora un po' incompreso, inesplorato, e questo lobo frontale sembra sembra che quando viene offeso da alcuni insulti ischemici perché situazioni biologiche, biochimiche, di stress prolungato, di rabbia repressa, di frustrazione protratte nel tempo, possono provocare un aumento della coagulazione del sangue, quindi la formazione di piccoli trombi che poi rovinano alcune cellule e guarda caso rovinano le cellule che comandano i freni inibitori. Quindi la perdita dei freni inibitori, che è il momento scatenante di una specie di liberazione in cui il paziente diventa un altro, e questo non accade solo nelle persone molto molto anziane, ma anche nelle persone che hanno, diciamo, fra i 50 e i 60 anni. Quindi se improvvisamente il vostro partner incomincia ad essere diverso da quello che era, a parte le altre ragioni che ci possono essere, una delle cose da indagare potrebbe essere questa, per escluderla, che ci sia una sofferenza proprio del sistema circolatorio legata. D'altra parte, anche l'uomo preistorico, tanto per tornare a quello che diceva il professore, l'uomo preistorico reagiva all'attacco della belva feroce, poteva reagire in due modi, sì, o con l'atteggiamento di fuga o con l'atteggiamento di lotta, e guarda caso nell'atteggiamento di lotta, quando si preparava a combattere, si gonfiava come un gatto, quindi i muscoli corti si gonfiavano, ricevevano più sangue, il sangue diventava più capace di coagulare perché si preparava a coagulare le ferite che la belva avrebbe inferto a questa persona. Se invece avesse scelto coscientemente un atteggiamento di fuga, la maggior parte del sangue sarebbe andato ai muscoli lunghi, quindi a quelli delle gambe, per fuggire, farlo correre. Ed è così che noi cerchiamo di interpretare e di spiegare il perché un grande stress, una grande paura, un grande dolore possono provocare un infarto, per esempio. La rabbia nasce dal cervello, e lo sappiamo bene, nuoce al cuore. Sembra un modo di dire, ma è tutto dimostrato. No, non lo è, noi siamo completamente collegati nel nostro organismo, perché è il sangue che ci mette in collegamento. Abbiamo tanti distretti e tutti questi distretti parlano fra di loro attraverso sostanze che si chiamano ormoni, tutte le sostanze chimiche che sono nel sangue, ma che non arriverebbero a destinazione se non ci fosse l'idraulica, quindi il sistema idraulico che le porta. Quindi la circolazione del sangue è fondamentale, e quando il sangue recepisce un messaggio in un punto del corpo lo trasmette inevitabilmente anche a un altro punto. Faccio un esempio che mi riguarda da vicino, sì, sul tema. Perché alcune persone subiscono, per esempio, un intervento chirurgico ad una gamba per una frattura di femore o per una protesi di femore, di anca, e hanno una trombosi dell'altra gamba, che vuol dire un coagulo di sangue inappropriato, che era una gamba sana? Perché il sangue circola, recepisce un messaggio in un luogo e lo porta da un'altra parte, e dove trova punto di debolezza coagula. Lo stesso avviene quando ci sono questi stimoli come la rabbia, come la paura, perché anche la paura, o come la frustrazione prolungata. Insisto su questa parola perché è il prolungare nel tempo uno stato emotivamente impegnativo, più che lo stress immediato della reazione al pericolo oppure all'insulto. Questo può provocare delle alterazioni nel sangue che possono aumentare il rischio cardiovascolare, che vuol dire di infarto, di ictus e di malattie legate alla formazione di trombi o di emboli nel cuore. La rabbia viene raffigurata con una donna, no? Ma non certo. Succede spesso, ecco, che le cose cattive siano femminili. No, ma non perché le donne si arrabbiano di più, Lo facciamo in modo diverso. Professor Cavedini, ho sentito un sospiro. Non ho capito se era un sospiro o una risatella. No, è che quando sono in trasmissione con te, Nicoletta, gli uomini escono sempre perdenti. Ma non è. Ma anche la trombosi è femminile. Anche la trombosi è femminile. È l'infarto che è maschile. È sempre così, no? Nel senso che sicuramente. Al di là del fatto che gli uomini si arrabbiano più o meno delle donne, le modalità di esprimere, ecco, io vorrei fare una differenza tra i due sessi, professor Cavedini. Sono molto più impulsivi, no? Cioè compiono comportamenti molto più istintivi, molto più primordiali, perché di fatto lo siamo, sotto la spinta della rabbia. Le donne hanno probabilmente una modalità di arrabbiarsi molto più legate alle ingiustizie subite, molto più continuativa nel tempo, più di quanto invece l'uomo lo esploda e poi magari spesso e volentieri passa immediatamente, che è anche il modo peggiore di manifestarla, perché non è la modalità per andare nel centro del problema, capire perché sono arrabbiato, con chi ce l'ho, qual è la vera ragione, no? E quindi è forse il modo meno produttivo di esprimere la rabbia. Professor Cavedini, il nostro rapporto con la rabbia può cambiare? No? Può cambiare nel tempo, può modificarsi, e ci sono dei segnali che però secondo me vanno interpretati, vanno conosciuti per essere interpretati. Quali sono? Beh, allora, sicuramente, come dire, già prima facevamo una distinzione tra l'azione immediata, no? Prima si parlava anche di come il nostro corpo si predispone ad aggredire immediatamente la situazione, sia in termini di postura che di modalità del nostro di espressioni facciali, piuttosto che di attivazione del nostro sistema autonomo. Quindi la reazione acuta della rabbia è una reazione che poi spesso e volentieri spinge all'impulsività e quindi al comportamento a volte anche di tipo aggressivo. Diverso invece è la percezione continuativa. Su questo sono d'accordo con quello che diceva prima la dottoressa, che è proprio la componente di continuazione della gestione della frustrazione, più che non la singola reazione immediata. E quindi in questo caso la modalità per affrontare la rabbia è spesso una modalità molto più di chiusura, molto più di, come dire, meno aggressiva e più di modificazione della gestione del rapporto con gli altri, quindi una componente sicuramente più prolungata nel tempo e molto più pericolosa se mal gestita. 800240024, buttarla fuori o tenerla dentro, e soprattutto dopo che ci siamo arrabbiati, come ci sentiamo? Silvana ci chiama da Genova, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, non ci posso neanche credere, ok, vedrò di essere un attimino chiara perché è veramente tanto complesso. No, non sono emozionata, perché è che no? Veramente, cioè mica caso avete scelto due interventi del genere, quindi uno psichiatra e un'altra continuità che non ho ancora capito chi è comunque il personaggio che ha parlato adesso, però è una cosa... Legata alla dottoressa Rotavendere, che ci parla degli effetti di questa emozione sia sul cuore, sul cervello, ma in termini di conseguenze più fisiologiche, quindi di salute. Esatto, perfetto, ce l'ho tutte allora. Okay. Bene, allora andiamo Silvana. Allora, questa storia della rabbia, io ho sentito appunto questa storia di questa stanza che esiste, dove tu vai dentro a smazzare roba, a farla a pezzi e tutto quanto. Secondo la mia esperienza personale, pochissimo veramente, stupidate che ho studiato di psicologia eccetera, però non è tanto per studiare, proprio perché lo vivi, ci sono tre stadi in psicologia, adesso non sto a fare lezioni. Sì, no, però Silvana, ci dica ci regali il suo contributo, se no gli altri ascoltatori che sono in linea in attesa di parlare con noi si arrabbiano. Io ho una reazione particolare, com'è? Nel senso che sono una che ha sempre, da piccina, io conto fino anche 10.000 se è caso. Però dopo la fine non riesco, cioè mentre conti perdi tempo, non riesci a reagire, non riesci a pensare, e a me è successo che comunque mi sfogo su me stessa in tutto questo pensare di quello reagire, che si dice un po' la rabbia repressa, che è logora, esatto, vero? è una frustrazione in tutto, in qualsiasi caso, in qualsiasi situazione, non è per forza di pericolo, no, di qualsiasi atto quotidiano, quando tu hai degli scrupoli o dei pensieri, o pensi veramente troppo, ti fai troppe menate, segmentali, scusi, me lo permetto, sì? Concedo. Abbiamo capito il concetto, Silvana, perché ci sono tante persone che anche reprimono la rabbia e tutto sommato un po' si arrabbiano di reprimerla. Beh, mettiamo che intanto che un pochino si reprima la rabbia non è neanche male, perché se tutti dovessero immediatamente reagire senza il controllo della ragione, credo che questo sarebbe una devastazione. Bisogna capire quali sono i meccanismi attraverso i quali poi quella che noi una volta chiamavamo lo stress e basta, perché abbiamo dato a questa parola stress un'accezione negativa, perché abbiamo calcolato quali sono i danni che lo stress dà, e la rabbia certamente è, diciamo, una delle cause o delle componenti dello stress, e quindi provoca più o meno le stesse reazioni. Le soluzioni possono essere diverse. La soluzione più facile, più immediata, ma secondo me non la prima da scegliere, è la soluzione farmacologica. Però secondo me non possiamo trasformare il nostro mondo in un mondo di persone che sono fra virgolette drogate da farmaci che modulano tutte le loro emozioni. È meglio cercare di razionalizzare. Allora, razionalizzare vuol dire cercare di capire, primo, che cosa mi genera la rabbia, secondo, se ci sono delle ragioni per cui io la tollero male o la esprimo troppo immediatamente, perché sono esausta, perché ho il troppo stress, pieno, certo. E terzo, come faccio per riequilibrare il mio corpo in termini ormonali, in termini circolatori, in termini di pressione del sangue, in termini di ritmo del cuore, per fare in modo che le mie reazioni siano governate anche dalla la razionalità e non solo impulsiva, altrimenti ci trasformiamo in una società di impulsivi. Già secondo me ce ne sono troppi, me compresa, perché poi ognuno deve fare un po' anche un mea culpa. Quindi quello che è importante secondo me è sempre capire quali sono i meccanismi che generano le reazioni e cercare di rimettere ordine nelle cose in maniera da stabilire quali sono le priorità, quali sono le cose più importanti, per non cadere nella trappola del faccio troppo, lo faccio male, oggi è un delirio, oggi sono stressato. Tutto questo diventa come una specie di onda che ci travolge, per cui ci alziamo la mattina e ci sentiamo già stressati. Quindi sapere, prima di tutto conoscere, capire, anche nei bambini bisognerebbe a scuola spiegare quali sono i meccanismi dello stress, della rabbia, della reazione, del rossore, del cuore che accelera, della sensazione di respiro che manca, di soffocamento, addirittura di asma, perché qualche volta ci sono degli attacchi di asma. Siamo soliti darla alla rabbia una connotazione negativa, ma scopriremo tra poco che la rabbia può avere anche una valenza positiva. Io penso a quella, no? Professor Cavedini, in tante occasioni. Essere e benessere. Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. E quel costantemente in professor Cavedini e quel costantemente. Andare in macchina è un po' come confrontarsi con il micromondo delle difficoltà, no? In macchina subiamo un po' tutte le ingiustizie, le prevaricazioni degli altri automobilisti e quindi è sicuramente un luogo a rischio per arrabbiarsi. Tant'è che no, capita spesso, credo, un po' a tutti. Beh, capita a tutti, poi ci sono quelli che sbraitano e quelli che fanno finta di nulla e pensano ad altro. Abbiamo Emilio che ci chiama da Milano e Francesco dalla provincia di Roma. Emilio, buongiorno. Buongiorno, volevo portare una testimonianza molto fresca sulla questione della rabbia. Sì. Quest'estate sono andato in ferie, sono arrivato sul luogo di villeggiatura e durante il viaggio ho avuto una forte discussione sia con mia moglie che con mio figlio. Morale della storia, l'indomani mattina mi sono svegliato e avevo una tachicardia a 167 battiti al minuto. Per gli effetti ancora come dice. Io mi ricordo, cioè, il dottore mi ha detto una questione di rilassamento o di stress, però personalmente sentendo la vostra trasmissione mi è sorto il dubbio che magari una forte rabbia mi possa aver creato questo problema. Infatti, come si dice, no? Sono arrabbiato, mi sale la pressione. La pressione è alta perché in questo periodo ho il cuore in gola, sono troppo stressato perché lo stress è a sua volta tirato in ballo quando ci saltano più spesso, no? Allora è molto per rispondere a questo ascoltatore, in genere questo fenomeno dell'aumento della rapidità del battito del cuore, rapidità regolare, con ritmo regolare, quindi non con ritmo alterato con quelle che sappiamo essere le extrasistoli, i battiti strani, sì, ma regolarità, questo dovrebbe avvenire nell'immediato dopo l'arrabbiatura o dopo la situazione di grande stress. Il fatto che questo signore si svegli la mattina dopo ed abbia ancora le pulsazioni a 160 può dipendere anche da un'altra componente, la situazione di rabbia di reazione, sì, e di stimolo può riflettersi anche sullo stomaco, perché tutti gli organi parlano fra di loro e lo stomaco può andare in contrazione. Si dice tante volte mi si è chiuso lo stomaco per i nervi, sì, in effetti lo stomaco si chiude perché si contrae. Quando lo stomaco non funziona bene, non riesce a svuotarsi, che cosa succede? Che si gonfia. E siccome lo stomaco sta proprio sotto il diaframma, quasi tutti sappiamo che il diaframma è quel muscolo che divide la parte nobile del torace con i polmoni, il cuore, che sono gli organi nobili, da quelli un po' più volgari che sono l'intestino, lo stomaco, il fegato, che non è vero che è così ma viene interpretato così. Cosa succede? Che lo stomaco si gonfia, rialza il diaframma proprio perché lo fa sollevare. Sopra il diaframma è appoggiato il cuore, e una delle ipotesi che i cardiologi e i gastroenterologi condividono condividono, non tutti, ma sì, molti, è che ci possa essere una reazione nel battito del cuore in termini di aumento della rapidità con cui batte e di disturbo anche del ritmo invece del cuore, per esempio attacchi di fibrillazione atriale possono insorgere così quando è lo stomaco che non funziona bene. Se la rabbia si riflette sullo stomaco, lo stomaco lavora meno bene, lo stomaco si gonfia, il diaframma si alza, il cuore si scoccia di essere spinto verso l'alto e siccome non è un cuore che ha 15 anni, 20 anni, 25 anni con la fortuna di essere giovane e reattivo, può darsi che riveli di essere fragile nel suo sistema elettrico, che vuol dire che il sistema elettrico del cuore è come il sistema elettrico di casa nostra, invecchia, i fili invecchiano e qualche volta possono dare dei battiti alterati, battiti che poi possono quindi potrebbe essere utile pensare a, oltre a come ci che cosa ci fa arrabbiare, come ci arrabbiamo, dove sentiamo la rabbia. Sì, nel cuore, parte, nella pancia, in testa, nei muscoli, perché se pensiamo nelle allo tensioni. Yoga, lo yoga che io non pratico e quindi conosco poco, lo conoscono gli altri, ma lo yoga a che cosa tende? A distendere, a rallentare il respiro, a rallentare il battito del cuore e quindi a provocare uno stato di quiete in modo da eliminare quelle sostanze che hanno provocato le tensioni. Francesco della provincia di Roma, magari ci racconta una storia di rabbia buona, Francesco? Perché ma non lo so, no. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Non so se è rabbia buona, però vorrei fare così, parlare un attimino di miei 18 anni di matrimonio, sì, con una moglie con la quale insomma nel tempo ovviamente ci sono stati dissapori, discussioni, anche litigi, però lei non riesce a gestire questi litigi, nel senso che lei poi sfuria sempre la sua rabbia su di me in maniera molto violenta, sia dal punto di vista fisico che verbale, nel senso che parolacce a non finire e proprio e calci, pugni, insomma, vuol dire è una violenza proprio sia fisica che verbale, alla quale io non ho mai reagito perché io invece non sono fatto così e mi sono sempre chiesto, ancora non ho trovato una risposta, quale sia il motivo di questa sua rabbia che sfoga in questo motivo, perché nella sua famiglia non c'è una storia in questo senso, le sue sorelle o sua madre, i suoi genitori, certo, non ci sono storie di violenza dentro, insomma, e lei invece non sa che reagire in questo modo, insomma, questo è il mio grosso... Professor Cavedini, forse una risposta, una spiegazione per Francesco e soprattutto anche un consiglio che possiamo dare alle persone che vivono accanto ad una persona che non sa gestire la propria rabbia. Beh, innanzitutto mi sembra che il nostro ascoltatore abbia capito che dietro agli sfoghi della moglie non c'è una volontà, no, di colpirlo, ma c'è una sua difficoltà nella gestione delle sue reazioni, quindi questo se lo capisco, innanzitutto evito quelle incomprensioni e cerco di gestire quelle ferite che poi potrebbero essere difficili da rimarginare, sì, quando nella spinta impulsiva magari la persona che accanto mi offende o addirittura mi mette le mani addosso, quindi cerchiamo di discriminare tra virgolette, sì, quello che davvero la persona pensa da quello che pensa in quei momenti, che può non essere piacevole ma evidentemente non è fortunatamente il suo pensiero. La prima cosa che io proverei a fare che suggerirei al nostro ascoltatore è di ragionare con la moglie nei momenti in cui non è arrabbiata, quindi nelle situazioni tra virgolette di buona, sul suo problema ed eventualmente sulla sua volontà di imparare a gestirlo, perché se io faccio finta di niente appena la bufera passa, poi è quasi certo che successivamente ritornerà esattamente come prima, quindi affrontarlo nei momenti tranquilli e cercare di aumentare un po' la consapevolezza e di conseguenza anche la volontà a fare qualcosa. Ci sono degli esperti che possono aiutare in questo campo, perché dopo 18 anni mi sembra complicato ripartire da zero, no? Innanzitutto capire se c'è, come dire, un'impulsività più generale del comportamento, non soltanto nel rapporto con lui, e allora se c'è, come dire, una valutazione clinica, quindi da uno psichiatra, da uno psicologo. Ecco, la rabbia, questa rabbia può nascondere dei problemi, può essere la spia di malattie che non sono state diagnosticate, professor Cavedini? In termini clinici, sì. L'impulsività non è una malattia a sé stante, ma è un sintomo che può ritrovarsi all'interno di tante condizioni o comunque in generale di diverse difficoltà di tipo psichico, psicologico, quindi certo può essere un segnale, un campanello d'allarme che magari poi riporta semplicemente a dei tratti della personalità di sua moglie o della persona, o diversamente invece a delle condizioni un po' più ampie, quindi più meritorie di una valutazione di un intervento. Beh, dicevamo, professor Cavedini, ci siamo lasciati prima dei mercati per dire che la rabbia non ha sempre una connotazione però negativa. Non ce l'ha, come dicevamo, partiamo dagli aspetti naturalmente, c'è la rabbia, un modo per difendersi, e spesso è anche una modalità, se ben gestita però, se come dire, espressa in maniera adeguata, anche per fare emergere, soprattutto nel rapporto con gli altri. Ad esempio nelle competizioni sportive, stringere i denti per andare avanti, per superare l'avversario? Beh sì, più che una rabbia verso l'altro è un modo per, come dire, stimolare noi stessi a raggiungere il nostro obiettivo nelle competizioni sportive. La rabbia non è tanto la voglia, o non dovrebbe quantomeno essere nello sport sano, la voglia di sconfiggere l'altro, ma la voglia di arrivare davanti noi stessi, che è un pochino diverso. Quindi è comunque una spinta ad andare avanti, è comunque una spinta a gestire meglio quello che è il modo di raggiungere i nostri obiettivi. Poi, come tutte le emozioni, che non sono né buone né cattive di per sé, bisogna conoscerle, no? Bisogna imparare a conoscere queste emozioni sin da quando siamo piccoli. E tra poco parleremo dei piccoli che si impuntano, spesso fanno i capricci che ci sembrano proprio quasi, no, degli sfoghi di rabbia. Se avete dei bambini e volete parlarne con noi, dopo le informazioni sul traffico, lo sapevo, dopo le informazioni sul traffico ne parliamo con consigli e anche qualche consiglio di gestione, ma anche di lettura. Essere e benessere. Tutto questo non sarebbe successo se non mi avessi rubato il nastro di Prince. Potevi darmelo subito quando te l'ho chiesto, no? Cerchiamo di pulire, d'accordo? Certo, meno ti vedo e meglio è. Hey! Che succede? Non sai tenere una paletta? Io voglio la scopa! No! Sì, dammela! Papà l'ha chiesto a me, smettila! Oh, sei proprio nei pasticci adesso. Ehi! È stata lei. Che cosa è successo? No, è stata lei. Voleva togliermi la scopa. Silenzio, non è questa la... Mi ha portato la polvere negli occhi. Non l'ho fatto apposta. Essere e benessere. Che a figli lo sa, della serie anche i bambini si arrabbiano, ma questo è naturale perché, come abbiamo detto, la rabbia è un'emozione primaria, ma noi ci facciamo dare una mano per imparare a insegnarla un po' ai nostri bambini, a gestirla, a rapportarsi con questa emozione in modo sano e costruttivo, come si dice sempre. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Manuela Trinci, psicologa dell'età evolutiva, ma bentornata! Buongiorno, cara Nicoletta. Sono proprio contenta di sentirla. Anch'io. Dottoressa Trinci, è normale che i bambini si arrabbiano, soprattutto ci sono tantissime occasioni. Ci sono delle mamme che accompagnano i bambini all'asilo e alla scuola materna e le maestre dicono: ma suo figlio si arrabbia spesso. Oppure chi ha fratelli, c'è sempre un fratello che è un pochino più così, che si lascia andare più degli altri. È normale, fa parte anche, no, del processo di crescita, ma certo. Come, cosa e come dobbiamo fare? Come intervenire? No, guardi, intanto mi preme anche sottolineare un altro aspetto, forse della rabbia, per quello che riguarda i bambini. Ci sono sicuramente delle modalità rabbiose dei bambini, sia alla scuola dell'infanzia, sia in famiglia, sia al nido, no? I bambini si arrabbiano anche quando sono bebè, che diventano tutti faonazzi perché magari hanno un pannolone da cambiare, eccetera, eccetera. Quindi è veramente qualcosa che è dentro di noi. Però attenzione, genitori, perché certe volte i bambini si arrabbiano e hanno una modalità diversa di manifestarle. Sono quelle che si chiamano le rabbie silenti. Per esempio, bambini che fanno il broncio, bambini che cocciutamente si rifiutano di guardare le cose oppure di avere un'opinione diversa su quello che già pensano. Sono rabbie, anche quelle. E forse sono anche rabbie che alla fine sono più dolorose per i bambini, ma anche per l'adulto che il bambino ha di fronte, perché non si riesce più a parlare, perché in fondo il bambino che diventa rosso, che scaraventa le scarpe quando torna a casa, è più facile. È più facile, perché è chiaro che è un bambino arrabbiato. Allora io penso che sia davvero importante, come diceva lei, poco fa, aiutare bambini a decodificare i sentimenti, cioè proprio a alfabetizzare i sentimenti. Ci sono appunto dei libri che sollecitano in questo, ma ci sono anche proprio delle esperienze che vengono fatte sia in famiglia sia a scuola, elementare o anche, ripeto, scuola dell'infanzia, dove forse è meglio cominciare quando sono ancora piccoli. È meglio cominciare da piccoli. Da piccoli, appunto, dove si può riflettere insieme su quello che succede. Cioè, questo articolo di ieri, interessantissimo, a cui voi facevate riferimento sulla stampa, e lì credo si debba fare attenzione, perché il gioco non è quello di buttare via il sentimento della rabbia. Quindi io condivido relativamente che quando un ragazzino ha 18 anni possa boxare oppure possa entrare in un luogo dove infrange le damigiane o fiaschi di vino. Non penso che sia questo il punto. Si comincia da piccoli a aiutare a elaborare questo sentimento, a farci conti, perché la mia rabbia può danneggiare un'altra persona, sia la mia rabbia evidente, che ma quella... anche la mia rabbia silente, perché guardi, secondo me non c'è cosa peggiore quando uno mette il broncio e non si capisce nulla di quello che può aver offeso la suscettibilità dell'altro. Qual è l'aiuto che può dare un genitore a questo bambino? Come tirarsi fuori da questa situazione? Ma per esempio, intanto gli può anche dire, guarda, ma perché non si va a pensare a quello che è successo? A scuole, nelle scuole, ma si può fare anche a casa, ci sono dei luoghi, no? Dei luoghi della rabbia, ma... se anche accanto al luogo della rabbia, faccio per dire una scatola dove un bambino va e si scatena, una mamma una volta mi ha dato un suggerimento molto bellino, dice quando la bambina è arrabbiata le do un cuscino, così lei si arrabbia, però c'è anche la seggiolina accanto, una piccola sedia nelle scuole dell'infanzia, dove i bambini vanno a riflettere su quello che è successo. Me li vedo lì, piccoli. La mia nonna, quando eravamo piccoli noi e uno di noi si arrabbiava, diceva perché non vai a fare un giro? Perché non vai a fare un giro? Sentiamo però... Luisa da Monza. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno. Buongiorno Nicolette, buongiorno anche a tutti i suoi ospiti. Benvenuta, mi dica. Allora, sorridevo perché sentivo quello che dicevano ed è la stessa cosa che dico al mio bambino di 7 anni. Quando si arrabbia, senti, vai a farti una corsa, vai a farti un giro che magari ti passa, perché lui ha un modo di espressione della rabbia molto detonante, cioè lui testa i piedi, salta, eccetera, eccetera. Per cui ho cercato in questi ultimi 2 anni di aiutarlo anche attraverso la psicomotricità e quant'altro a gestire questo discorso. Ultimamente mi ha fatto una richiesta del tipo, mamma, ma perché non mi prendi uno di quei punching ball che magari vendono sportivi, quelli da gonfiare, così io lo prendo a pugni e mi scarico. Dottoressa Trinci, questa richiesta lei che cosa avrebbe risposto? Ma io penso avrei risposto come la mamma, no, certo lo possiamo fare, lo possiamo comprare, però non è che non è niente, non è che basta, è come quando un bambino ha paura, non gli si può dire non è niente, cioè se no si fa un cortocircuito del pensiero, perché lui in quel momento sta male, quando ha paura, ma anche quando sente la rabbia. Ecco, io credo che vada aperto uno spessore fra il gesto, quindi lo scarico, tutti si dice, anch'io quando vengono genitori un bambino più agitato, più nervoso, no? Faccia fare sport, perché questo davvero aiuta nella gestione anche di un'esuberanza che fa parte dell'età. Non deve essere circuitato il pensiero, cioè i sentimenti, perché, capito, ci sono dei sentimenti dietro la rabbia. È questo, secondo me, che non può essere assolutamente... confuso o dimenticato. Confuso, esatto. Sono le 11:53. Io ho meno di un minuto, se no Gianmarco Ferronato si arrabbia, anzi non si arrabbia, mi sfuma. Prendo questo ultimo minuto per salutare e ringraziare i miei ospiti con calma. Grazie al professor Paolo Cavedini, il nostro uomo di oggi. Vede che siete usciti bene stranamente oggi, alla pari, vero? Uomini e donne. Grazie alla dottoressa Trinci per essere tornata con noi. Buonissima giornata. Grazie a voi e non vi arrabbiate troppo. No, ho bisogno del libro, che so che lei ha un libro da suggerire alle mamme. Sì, è un libro stupendo che io uso moltissimo, si intitola Che rabbia, è edito dalla Baba Libri e l'autrice è una straordinaria anche illustratrice francese che si chiama Mireille Dallance. Con questo libro risolverete davvero molti problemi e ci aiuterà a pensare. Lo leggeremo anche noi allora, vero, certo, dottoressa Trinci? Certo, un libro, certo, farà bene anche al nostro cuore. Sì. Vero? Tutti quanti, per forza. Razionalizzare serve sempre, conoscere serve sempre, non esagerare con l'approfondimento anche, secondo me, serve, perché altrimenti ci si confonde. Insomma, facciamoci un giro e noi ci salutiamo. Grazie alla dottoressa Rota Wender, grazie a voi che ci avete seguito, a Laura Vanossi in redazione. Gianmarco Ferronato, ormai l'ho detto mille volte, e che cosa vi devo dire? Che siamo su Facebook, potete seguirci su Twitter e che, come sempre, ci sentiamo domani alle 11. Essere e benessere.